They don't play the song on the radio. They don't play the song on the radio. They don't play the song on the radio. They don't show that it's on the radio. They don't know that we are the media. They don't know that we start the media. I don't want to see what I'm making you. I see a big seat and I'm shaking you. Walking down the street, I'm the lady. Showing off my map of Tasmania. Shaped like a triangle. Some girls want no shape and they shave it on. That's so wacky, hurts with this tumble. Walking around and look like an Negro. Soft and sweet and shaped like a triangle. Some girls want no shape and they shave it on. That's so wacky, hurts with this tumble. Walking around and look like an Negro. I say grow that shit like a jungle. Give them something strong to hold on to. Let it fly in the open wind. If you get too bushy, you can trim. They don't play the song on the radio. They don't it's on the radio. They don't know that we are the media. They don't know that we start the media. I don't want to see what I'm making you. I see a big seat and I'm shaking you. Walking down the street, I'm the lady. Showing off my map of Tasmania. They don't play the song on the radio. Sisterhood is blooming. Buonasera. Puntata numero 8, vi ricordiamo subito i nostri riferimenti perché altrimenti ce li dimentichiamo durante la trasmissione, quindi sappiatelo, segnatevelo, carta e penna, 0649 1750 per chiamarci, squillarci in trasmissione per dirci che vi piace quello che state ascoltando, mfla.noblogs.org che è il blog del martedì femminista e lesbico autogestito del quale siamo in chiusura, un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Yes. Donna Sonica e la Music qui con voi. Il nostro blog è twowomenshow.wordpress.com. Su Facebook Sisterhood is Blooming. E basta, basta, abbiamo letto tutto. Su Twitter pure. E su Twitter Sisters on Air, dove ci potete appunto raccontare le vostre incursioni musicali e magari suggerirci anche qualche artista da passare. Allora, bella settimana musicale. Molto, sì. Ci sono state, insomma, c'è stata l'uscita di My Brother's Diamond che abbiamo aspettato tutti, poi ci sono dei concerti di cui vi parleremo. Molto interessanti che stanno per arrivare, c'è anche stata l'uscita dell'album di Camille che non abbiamo messo in programmazione, sarà per la prossima puntata che è fra due settimane. Io intanto comincio subito con la musica e vi passo a parlare di un progetto molto interessante, almeno che si presenta molto interessante sulla carta, visto che parliamo di Sister Assassin, che è il nuovo inedito progetto di Lydia Lunch, che insomma è una dark, una regina del dark che conosciamo bene tutti quanti, che si è magicamente unita con una sassofonista piuttosto spiritata che si chiama Jessie Evans, che è una californiana trapiantata a Berlino, che già di partenza un bel... Stasera abbiamo una selezione molto spiritata. Un bel movimento. E poi la cantante polistrumentista italiana, per una volta, cioè abbiamo anche la bandiera italiana in un trio così interessante, che è Beatrice Antolini, insomma, un'artista molto, molto particolare, sicuramente molto originale rispetto al panorama femminile musicale italiano. E quindi, insomma, parlando di Sister Assassin, che sarà in concerto a Roma il 25 ottobre, quindi tutto molto inedito, non c'è musica in giro, non sappiamo cosa faranno. So che Beatrice Antolini sarà alle percussioni, lei è una pianista. No. Lydia Lunch canterà, insomma, e la Evans sarà appunto al sax e non so a cos'altro, probabilmente anche le tastiere. Quindi, insomma, il progetto sembra molto interessante e molto ambizioso. Io vi faccio ascoltare rispetto a questo progetto, per cui, appunto, vi ripeto, non c'è ancora musica, quindi non possiamo ancora dirvi niente. Un pezzo di Jessie Evans dal suo ultimo album, che si chiama Is It Fire? E il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Let Me On. Lei si chiama Jessie Evans. Ooh, ooh, ooh. Eccoci. Eccoci qua. Cioè, Stevens non era tanto spiritato questo pezzo, no, però infatti. Insomma è un artista molto interessante. Speriamo che questo progetto sia davvero bello. Ce lo andiamo a vedere, eh? E io vi parlo di un'altra ragazza invece che sarà in concerto sempre qua a Roma il 21 ottobre. E lei si chiama Selassie, è una ragazzina nata nel 1989, mi sento male quando leggo queste date, è una ragazza belga che comincia all'età di 15 anni a suonare la chitarra acustica e partecipa a un concorso per nuovi talenti e viene prodotta subito praticamente e da un'etichetta discografica indipendente ovviamente nel Belgio, poi vengono utilizzati grazie a il suo manager i fondi che il Belgio dà per gli artisti, che ne avevamo già parlato la settimana scorsa. Questo Belgio continua a farci provare invidia. Sì, ci ha puntato Kids and Drive, Kids no? Kids and Drive, esatto. Anche agli immigrati gli danno i fondi. Anche agli immigrati, sì. E la sua voce è molto interessante perché lei prende spunto da Lauryn Hill e da Erykah Badu. Però i pezzi diciamo sono abbastanza freschi. Io vi faccio ascoltare una cosa da dire, che questa ragazza giovanissima nell'arco di un paio d'anni ha fatto due EP e un CD intero, che è quello dal quale vi faccio ascoltare il brano che stiamo per sentire. Un'altra cosa molto interessante è il fatto che poco dopo che lei ha cominciato a suonare in giro in Belgio, in Francia, in Olanda, tutti i suoi concerti erano sold out, quindi insomma sembra che prometta molto bene. Noi ci aspettiamo di vedercela il 21 ottobre al Circolo. Il 22 ci sarà Anna Calvi, io ve lo volevo dire, non lo so chi andrà e chi non andrà, però era da dire. E ci sentiamo la signorina Selassie che ci canta Just Because I Do, che è il pezzo che chiude il suo ultimo CD. breaks north, all our dreams, but on the shelves, but I'm sure, we let them know who we are, that you and I, the feeling we have, is coming back again. C'è la su. Il pezzo su, si chiama? Si chiama Just Because I Do. Just Because I Do, la potete avere in concerto la prossima settimana, sbaglio? Il venerdì. Ah, il 22. Io invece volevo, come vi avevo annunciato, anche farvi ascoltare un pezzo di Beatrice Antolini. Insomma, lei è bambina prodigio del pianoforte, ha inciso 3 album, uno per la Madcap nel 2006 che si chiama Big Saloon e 2 per la Urtovox, l'ultimo che si chiama Bioi e credo sia della fine dell'anno scorso. E a me non piace molto sul disco personalmente, non è una delle mie cantanti preferite, ma dal vivo invece secondo me è decisamente un artista che si dà tantissimo, col pianoforte è veramente intrigante, oltre che molto brava, e quindi appunto secondo me questo progetto delle Sister Assassin potrà essere figo, anche perché ha le percussioni, quindi insomma anche un modo diverso per esprimersi. Allora, il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Funky Show, è tratto appunto dall'album Bioi, lei è Beatrice Antolini. Assolutamente da andare a vedere, perché noi ci saremo. Sì, assolutamente. E io passo a tutt'altro, passo proprio a un pezzo di world music. Lei si chiama Indy Zara, è una ragazza franco-marocchina, nata da padre marocchino e madre francese. E, diciamo, le sue canzoni sono per la maggior parte cantate in inglese, tranne alcuni pezzi, tra cui I Mixi Mic, che è stato il brano che l'ha resa conosciuta un po' dappertutto, che è in linguaggio berbero. E, lei lei cresce appunto in Marocco, poi si trasferisce a Parigi con il padre e comincia a scrivere piccolissima anche lei, tanto sono tutte bambine prodigio. Nel 2005 si rende conto che aveva scritto più o meno 50 canzoni e comincia a suonare in giro, viene scoperta da alcuni discografici della Blue Note Records che la mettono subito sotto contratto. Sta Blue Note Records. Sta Blue Note Records. Hai notato che spesso ci capita di mettere artiste che vengono da un altro paese e si trasferiscono, insomma, in Belgio, sì, in Francia, in Germania, eccetera, e cominciano a suonare magari anche con sovvenzioni in Italia. No, tutti questi in Italia artisti devi pagarti tutto. Già non ci stanno quelli italiani, diciamo noi. Quindi esatto. Voglia. E comunque, non mi fai venire la tristezza. Vabbè. Esce appunto in febbraio il suo ultimo album. Io ve lo volevo far sentire da molto tempo, però poi non c'è stato modo. E ve lo faccio sentire subito. Il brano si intitola Set Me Free. E quindi anche un brano di speranza per le donne, per la liberazione appunto delle donne. Il CD si intitola Handmade, lei è Hindi Zara. Rivers of water from my eyes to my chin. Consolation I could find in your skin when you came in. When you came in. When you came in. When you came in. Please set me free. Let the fire burn in me. Please set me free. Let the love shine in me. I tell you. You do to me, please set me free. I know you'll never be the man I used to know. Never be the man. I know you'll never be the man I used to love. Cause with your black eyes and with your white. Fire burn in me. Please set me free. Let the love shine in me. I tell you, please set me free. Cause look what you do to me. Please set me free. Keep me away from your troubles now. Keep me away. è piaciuto questo Set Me Free. Bene, Set Me Free. Mi fa piacere. Molto bello. Ci fa piacere. Io passo a Peggy Sue, che è una nostra vecchia conoscenza. Il 24 settembre di quest'anno è uscito Acrobats, penso che sia la pronuncia esatta, che è il loro nuovo album, il secondo album uscito per la Wichita Records, che appunto le ha scritturate dall'anno scorso, le abbiamo sentite nel vecchio ciclo di trasmissioni, sì, con il loro primo album che si chiama Fossils and Other Phantoms. Loro sono due bravissime, secondo me, musiciste, Rosa Rex Slade e Katie Chloe Young. Mi piace, sì, dire questa carrellata di nomi stasera. Di nomi in inglese. Io vi consiglio, loro sono di Brighton, vi ho già parlato di loro, quindi non vi dico tanto della loro biografia. Sono in tour promozionale in Inghilterra, quindi c'è la speranza che possano capitare da queste parti magari fra un paio di mesi. E vi consiglio invece di, ve l'ho consigliato anche un'altra volta, ma insisto, di controllare il sito della Wichita Records, che è una piccola casa indipendente molto molto bella, che produce un sacco di artisti. E abbiamo passato varie cose, le Wild Flag per esempio, che c'è nella scorsa trasmissione, sono prodotte dalla Wichita, e in particolare loro fanno una cosa molto carina, che fanno ogni mese un podcast che si può ascoltare sul loro sito, delle, diciamo, delle nuove uscite dei loro gruppi, quindi anche la possibilità di ascoltare gratis e magari di trovare qualcosa che vi piace. Quindi ci andiamo ad ascoltare il primo singolo del nuovo album di Peggy Sue, che si intitola Song and Dance. Thank you. speriamo di vederle al più presto, perché tipo un anno e mezzo, no? Che le aspettiamo. Che ci piacciono. Che le abbiamo scoperte, sì. E io vi parlo invece di US Girls, che non è una band, ma è una ragazza che fa tutto da sola, si chiama Megan Remy, americana, che incide per la Six Breeds Records, che è una etichetta indipendente di Filadelfia. Ha fatto due CD e la cosa carina è che ha voluto fortemente fare anche il vinile di questi suoi CD, e sono andate molto bene le vendite, quindi meno male che ancora il vinile non è morto del tutto. Lei è veramente una fautrice del do it yourself, perché si trova da sola sul palco con appunto le sue loop station, microfoni, drum machine, e fa tutto da sola. È stata considerata la nuova Brian Eno, addirittura, per le sue atmosfere molto allucinogene, psichedeliche. Perché addirittura? Perché sentirai che proprio Brian Eno non è un'altra cosa, è US Girls. Quindi che dirvi altro? Basta, ve la faccio sentire perché stasera voglio essere breve. Vi faccio sentire un pezzo che è stato utilizzato come colonna sonora di una serie TV. Si chiama, il titolo è If These Walls Could Talk. Dimmi se ho detto bene Sora Sonica, penso che ho detto bene. È molto interessante la cosa, perché lei comincia prendendo il pezzo The Locomotion, che era un pezzo molto famoso negli anni 60, che è stato fatto, insomma, coverizzato anche da Kylie Minogue e da tantissimi altri, e poi però ci mette su tutta un'altra melodia. Se l'ha fatto Kylie Minogue. Però sentirete che all'inizio appunto vi sembra di sentire The Locomotion, poi in realtà il pezzo è tutta un'altra cosa. Lei è US Girls. Questa è quella, ecco, quella pazza questa era del Locomotion US Girls. Allora, io penso che spesso le artiste che più conosciamo, insomma, che quelle che, di cui ci sembra, no? Che ci sembra che ti ascoltano da tanto tempo, poi sono quelle di cui sappiamo meno. E spulciando neanche tanto con difficoltà, visto che mi sono solo basata su quello che c'è scritto su Wikipedia, quindi insomma alla portata di tutti e di tutte, non ho potuto non ridere al pensiero di una giovanissima undicenne che, spinta dalla sua insegnante di musica, le ha fatto incidere questa cover e l'ha proposta ad una radio che fondamentalmente ha fatto sì che poi questo pezzo passasse e venisse, insomma, questa artista di 11 anni scritturata poi da un'etichetta, eccetera. L'artista di cui sto raccontando in questo modo la carriera è Bjork, aka Betulla, e io direi che un pezzettino di questo pezzo, di questa cover del 76 che l'ha lanciata, perché poi nel 77 ha fatto un album a 12 anni, la dobbiamo assolutamente ascoltare. He wants to dance, he loves to dance, he got to dance, oh, I love love. But my baby just loves to dance, oh, I love love. But there's no time for a romance, no, no, no. Oh, I love love. But my baby just loves to dance. The minute the band begins to swing it, questa era Bjork nel 1976. Citiamo la in giudizio la, l'insegnante di musica. Che con questa cover di I Love to Love fondamentalmente si è lanciata, perché poi ha cominciato a suonare e non ha smesso più. Poi gli Sugar Cubes, poi insomma, voglio dire, una carriera straordinaria, visto che siamo arrivati penso al 17° album, insomma, di Bjork da solista, più appunto tutta la carriera prima di cominciare a lavorare da sola. E poi esce questo album che si chiama Biofilia o Biofilia, insomma, non so, Biofilia dovrebbe essere, forse, sì. E insomma è tutto un album, un concept album, anzi più di un concept album, perché in realtà è un album multimediale, quindi non solo c'è tutta la parte, diciamo, concettuale, quindi tutta l'idea della la formazione dei cristalli, la replicazione del DNA, insomma tutti i giochi sia di testo, quindi i titoli delle canzoni, ma anche insomma poi questa famosa, questo famoso lavoro di creare delle applicazioni per iPhone, iPad, eccetera, che fondamentalmente illustrano, ma anche danno la possibilità a chi compra le applicazioni di giocare un po' con, sì, con i pezzi anche. La cosa che mi sembra, io non sono una fan di Bjork, cioè questa cosa che spesso passo delle cose di artiste che non mi piacciono. Vabbè, perché vuoi dare... Amo essere in contraddizione con me stessa. No, perché penso che comunque sia necessario, insomma, parlarne, visto che è uscito questo album, comunque ha fatto parlare molto di sé, ed è giusto anche dargli spazio, anche se insomma Bjork di spazio ne ha abbastanza. No, la cosa interessante che volevo dire, che un po' mi ha fatto anche riprendere rispetto all'idea che mi ero fatta di, c'è queste, tutta un'isola di spazio di questi, di queste applicazioni, era il fatto che comunque la sua idea era di cercare un metodo, quello che sta cercando di fare lei, almeno così dicono i giornalisti che l'hanno intervistata, è di trovare un metodo alternativo per insegnare musica, siccome lei ha studiato pianoforte, quindi insomma avrà fatto tutta la trafila classica e anche pesantissima di un insegnamento, certo, classico, e la sua idea è quella di mettersi una scuola in cui si insegna musica in modo alternativo. Quindi questa gliela diamo, gliela appoggiamo, e quindi solo per questo passiamo quindi da Biofilia, l'ultimo album di Bjork, il pezzo Virus. Body until I'm waiting for you, I'm starving for you. Grazie, le faremo sapere. Beh, se lo, la signorina, dopo 17 album. È virtuosa, va bene, sì. No, vabbè, non amiamo tanto Bjork. Cioè, io, per esempio, la amavo tantissimo. Noi in realtà l'abbiamo messa per poterla insultare. Esatto. Oh, no. In realtà, per poter dire che non, quest'album in realtà è... Vabbè, la senti e dici, vabbè, è Bjork. Sì, da Bjork... Dall'Islanda passiamo alla Nuova Zelanda, vi parlo di Minui, che è un gruppo che non è conosciutissimo qui, ma d'altronde insomma non è che mettiamo musiche che sono conosciutissime qui. Loro si formano in Nelson, Nuova Zelanda, per merito della cantante e drummer, oddio c'ho un problema con l'italiano stasera, batterista Ruth Carr. E infatti all'inizio il gruppo è composto da lei alla batteria e altri due componenti che suonano i sample e le tastiere e le chitarre. Poi decidono di passare Ruth. Ma quanti sono? Sono tre. Decidono di passare lei come lead, come insomma metterla davanti, e quindi utilizzeranno poi da allora sempre le drum machine, le loop station e le sequenze di batteria ovviamente registrate da lei. I Minui hanno inciso una marea di album, sono diventati famosi in Australia, a Nuova Zelanda, in America, Belgio e... no, adesso andiamo di là con il singolo Except You, che è il pezzo che vi farò sentire fra poco, di cui hanno fatto un video che ha vinto parecchi premi. Interessante dire che i Minui amano fare anche il packaging dei loro CD, e anni fa per un vecchio disco hanno chiesto a tutti i fans di mandare delle foto loro e della Nuova Zelanda, insomma divisi di gente che era in Nuova Zelanda, e hanno fatto proprio il packaging di tutto il disco con le 2000 foto con le facce, la popolazione della Nuova Zelanda. Allora, ora ti dico quante sono, perché ce l'avevo da qualche parte, mille esatto. E io vi faccio sentire, vabbè, loro incidono ovviamente per le etichette indipendenti, sia hanno inciso in passato per la Dollhouse Record di London e ora per la Tardas Music di Auckland, sempre Nuova Zelanda. Vi faccio sentire il loro singolo, appunto, che li ha resi famosi non qui, che si intitola Except You. Loro sono i Minui. Un'ultima cosa, Ruth Carr ha cominciato da pochi anni a scrivere anche poesie, racconti, e insomma ha scritto il suo primo libro, che è uscito il 21 marzo di quest'anno, che si intitola I Felt Like a Fight Alright. E quindi quando arriverà qua magari lo tradurranno, speriamo di riuscire a leggerlo. Loro sono Minui, questo pezzo è Except You. I I never broke anything I had. I never had anything I broke except you. Except you. I never kept anything I stole. I never stole anything I kept except you. Except you. Neozelandesi, hai capito? Che ti combinano. Questo pezzo è del 2002. Aspita, abbiamo fatto un revival. Esatto. Allora, io passo a parlarvi di Emma. È uscito a maggio il suo ultimo album, si chiama Past Life Martyr Saints. E lei si chiama Erica Anderson, appunto in arte Emma. È una giovane artista americana, anche lei poco più che ventenne, quindi insomma per la serie ce lo diciamo da sole. Esatto, siamo vecchie. Sì, fondamentalmente è vera questa cosa, l'età media delle artiste si è abbassata, sì, tantissimo. Sì. Perché cioè a 30 anni già sei... È cosa buona e giusta, 30 anni niente, basta, sei è finito. Sei già una signora della musica. Esatto, lei insomma è una tipa del South Dakota, ma insomma è emigrata culturalmente da Los Angeles e quindi insomma da lì ha cominciato a suonare, ha suonato in una band punk wave e quindi ha... un background punk wave e anche un po' new age secondo me nel tipo di sound che poi alla fine porta nei suoi pezzi, che sono molto interessanti. Viene spesso insomma avvicinata a personaggi come PJ Harvey, Cat Power, ma fondamentalmente chi non lo è? Cioè, esatto. Nanda Calvi, PJ Harvey, e questa è PJ Harvey, e quell'altra è PJ Harvey. Cioè, vedi, ci saranno state altre artiste a cui ispirarsi? Sta povera PJ Harvey, oh no, tutto sommato suona anche da pochissimo, dagli anni 90, quindi... Però appena sentono una chitarra un po'... PJ Harvey. Ecco qua, niente. Quindi, insomma, Cat Power, chiaramente, insomma, quando fai una cosa un po' più strana, meno melodica, Cat Power, ecco qua. E quindi... Chiaramente questi sono i riferimenti che le hanno affibbiato, insomma, secondo me è molto più vicina da un punto di vista culturale alle Riot Girls, che invece non si nominano perché non si sanno, solo Riot Girls, un po' così, restiamo sul vago degli anni 90. Comunque il suo esordio è stato bene accolto soprattutto dai cosiddetti media specializzati, insomma, dalle riviste che comunque ci interessano, che non sono quelle mainstream ma sono un po' quelle alternative che troviamo soprattutto sul web, che ogni tanto vi segnalo. Basta chiacchiere, secondo me il suo album lo dovete ascoltare perché è interessante. Esce per la Southernian Transmission, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, è in tour in Europa, quindi il 12 novembre sicuramente sarà a Roma appunto a presentare il suo nuovo album. Lei è Emma e il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola, non me lo ricordo. Bene, Berlin. Berlin. Suggeriscono male. Eh sì, è stato un errore mio. Il pezzo era Milkman di Emma. Ok. Dopo questa bella figura. Dopo questa bella figura vi faccio sentire invece i Low Sea, che sono un duo irlandese che hanno fatto un EP e un CD e incidono insomma dall'Irlanda, sono stati scoperti poi da talent scout di oltreoceano e infatti incidono per la Lefts Records di Sacramento, California, visto che e hanno fatto il primo album che si intitola Las Olas, che appunto li ha fatti è un CD completo, e poi hanno fatto il loro EP. Il loro genere viene considerato come elettronico sperimentale krautrock. I membri sono Billy, che è una ragazza molto talentuosa alla voce, chitarra, percussioni, synth e suoni, e Bobby D, chitarra, basso, synth e suoni. Il loro è appunto questo krautrock con venature dream pop, un po' sognante, molto riverberato nelle voci. E lei viene considerata, è stata considerata la Julie Cruise sotto sedativi, per esempio, da alcuni giornalisti. Dove le trovi queste? Su Wikipedia. Krautrock io non l'avevo mai sentito. Esatto, ma krautrock lo trovi molto fra i generi musicali nuovi. Vedi? Ancora dobbiamo capire di cosa si tratta nello specifico. E niente, direi che l'unica cosa è farveli ascoltare. Loro sono i Low Sea e il pezzo che vi faccio sentire dal primo CD si intitola The Crash ed è molto carino perché qua trovate il groove di un altro pezzo molto famoso che è I Feel Love di Donna Summer. Loro sono Low Sea. We'll be right back. anche Donna Summer, molto usato questo luppettino. Sì. Io invece intanto vi ricordo i nostri riferimenti: twowomenshow.wordpress.com, dove troverete nei prossimi giorni il podcast della puntata e anche un po' di musica da scaricare a gratis, come si dice da queste parti. Esatto. Non e poi vi ricordo, oltre ai concerti che già vi abbiamo detto durante la trasmissione, vi ricordo che ci sta Hall of Arnolds il 17 ottobre. Auditorium, no, c'è stata, 17 ottobre, me la sono persa. Sì, c'è stata ieri. Yesterday. Le Doom Doom Girls il 20 novembre, che saranno sia a Roma il 20 novembre, mi sembra il 21, non mi ricordo la data, ma cercatele, al Cellar Theory di Naples. Che mi fa piacere dare una data, visto che insomma a Napoli non arriva nulla, mi fa piacere dire andate a vedere le Doom Doom Girls. Io lavoro poi, al Cellar Theory, che non so dove sia, però insomma ben venga che ci sta un posto a Napoli dove fanno belle cose. E il 21 novembre My Brightest Diamond, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sarà in concerto qui a Roma, tutte lì. L'ultimo pezzo di questa trasmissione è di... Intanto lo dedico a un'amica che ci segue spesso e ci dà anche tantissimi bei input musicali, che è la nostra amica portoghese, la Luisa Antunes. E a lei dedico questo pezzo di Chelsea Wolf, che spero le piaccia. Chelsea Wolf ha appena fatto uscire, come uso dire, un album che si chiama Apocalypsis. Nella copertina diciamo la scritta è in greco, e che si riferisce appunto all'apocalisse, che è in realtà appunto, nonostante l'idea drammatica che ne abbiamo, in realtà poi è un messaggio positivo, perché significa la caduta del velo, non la rivelazione, quindi in sostanza un rinnovamento delle cose, no? Mostrare la parte più vera. Quindi insomma è un bel concetto, una bella idea. E lei usa definire la sua musica Deep Experimental Curiosity, ma God Folk va pure bene, dice carino. Se stessa. L'album è molto interessante, molto ben fatto, molto ben lavorato. Ci sono tante voci registrate da lei, sovrapposte, che comunque insomma non creano un'atmosfera confusa, ma un'atmosfera cupa decisamente. Quindi insomma, se non vi piacciono, se vi piacciono le melodie un po' rassicuranti, un po' tranquille, Chelsea Wolf non fa per voi, quindi non ve la consiglio. Se invece vi piace sperimentare con i suoni un po' molto deep, molto profondi, anche nella parte oscura, allora va bene. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, che chiude anche la nostra trasmissione di questa sera, è Demons, Donna Sonica e La Musique. Vi salutano, Sister Odis Blooming vi aspetta fra 2 settimane. A presto. Ciao.